Allora, sono le 12 e 7 minuti primi, dunque sabato al centro sociale Acrobax, l'associazione Storie in Movimento festeggerà i suoi 10 anni di attività, un'esperienza importante che ha saputo legare un approccio scientifico nello studio della storia, nella diffusione di un sapere storico, senza però rinunciare, insomma, a una scelta di campo, potremmo dire. Insomma, nel corso degli anni gli appuntamenti di SIM Storie in Movimento hanno riguardato argomenti i più vari. L'associazione cura anche i numeri della rivista Zapruder, e tutto questo, insomma, lo si fa, come dire, nella consapevolezza che la passione per la ricerca storica può ancora oggi essere ancorata a una passione civile, perché no, politica anche. Quindi noi siamo al telefono con Eros Francescangeli. Ciao Eros, buongiorno. Ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Studioso di storia e tra i principali artefici e animatori di questa esperienza. Allora Eros, mi piacerebbe magari, insomma, nei limiti del tempo che abbiamo a disposizione, poter fare con te anche un piccolo bilancio di questi 10 anni, però ecco, forse è il caso di presentare innanzitutto questo appuntamento di festeggiamenti. Sì, abbiamo pensato, non abbiamo mai organizzato fino ad oggi, sono passati 10 anni dalla fondazione dell'associazione, 9 dal primo numero della rivista, di fare una festa. Organizziamo altre iniziative come il simposio estivo di storia della conflittualità sociale, qualche convegno nelle nostre assemblee, ma mai avevamo fatto una festa, perché un po' non ci piace l'autocelebrazione e poi perché forse tutti presi dagli impegni e dalle scadenze. Il decennale della nascita dell'associazione, poi magari vi descriverò brevissimamente le tappe che hanno portato appunto a Storia in Movimento, ha fatto sì che il gruppo, insomma, che coordina l'attività dell'associazione e la redazione, e non dimentichiamo il contributo importantissimo del gruppo romano, il gruppo locale romano, abbiano appunto organizzato questa festa all'Acrobax 9 giugno. Invito caldamente tutti e tutte a venirci a trovare. La festa per il decennale come si articola? Parte alle ore 18 con, l'abbiamo chiamato l'aperisim, SIM sta per appunto l'acronimo di Storia in Movimento, è un aperitivo di benvenuto con una piccola sottoscrizione. Poi alle 19 partono le iniziative vere e proprie con la proiezione dei documentari. Probabilmente mentre si tiene l'aperitivo verranno trasmesse le immagini della prima presentazione di Zapruder. È un non montato, quindi è un materiale grezzo, però filmato nel 2003 in Piazza Farnese, perché la prima presentazione di Zapruder, il numero che si intitolava Piazze e conflittualità nel maggio 2003, si è fatta appunto in piazza. Con un'enorme Z disegnata per terra, una Z gialla, contrattata di fatto con la questura, perché sono arrivati, che cosa fate, no? È una presentazione anomala, insomma, è stata, e abbiamo ripreso. Quindi dalle 18:19 manderemo questo non montato, però questo girato. Dalle 19 ci sono invece 3 documentari. Il primo documentario di Francesca Bracci e Enzo Rizzo è su Ciro Principessa, un ragazzo della Certosa, dedicato a Ciro Principessa, ucciso negli anni 70. L'altro documentario, Zanzibar, una storia d'amore, di Francesca Manieri e Monica Pietrangeli. A seguire un altro documentario di Claudio Di Mambro, Luca Mandrile e Umberto Migliaccio, Ma l'amor mio non muore. E poi sempre degli stessi autori, con la collaborazione di Maurizio Ribichini, si discuterà, cioè verrà presentato il documentario Bimba con il pugno chiuso, appunto, che è ancora in lavorazione. A seguire ci sarà un dibattito con gli autori e le autrici dei tre dei vari documentari, fare storia con le immagini in movimento, fonti, ricerche e il problema dei finanziamenti. Quindi è una festa ma anche una riflessione nello stile zapruderiano. Dopodiché verso le 10:15 ci sarà la premiazione del concorso fotografico. Nel frattempo si può ovviamente continuare a mangiare attingendo all'ottimo buffet preparato appunto dai soci e le socie di Storia in Movimento, e si può anche ovviamente bere al bar dell'Acrobax. E alle 22 appunto la premiazione del concorso fotografico Ritratti del Conflitto, che è un concorso fotografico che abbiamo bandito all'inizio dell'anno proprio in occasione del decennale, insomma dei festeggiamenti del decennale, Ritratti del Conflitto, persone, luoghi e simboli del conflitto sociale. Dall'antichità ai giorni nostri sono stati selezionati dalla giuria tre foto e ci sarà appunto la premiazione simbolica, e cioè nel senso non c'è un premio vero e proprio, però sarà la pubblicazione nella rivista e via dicendo. Alle 22:30 Reading Resistente, ci saranno letture una drammatizzazione di passi, opere e materiale sull'antifascismo e l'antagonismo resistente a Roma e non solo. Alle 23:15 Bianca Giovannini La Llorona e Pier Giorgio Faraglia faranno un concertino, e a seguire fino a notte inoltrata il DJ set, una selezione di musica. E nell'ambito della festa è allestita una mostra Ritratti Partigiani di Luca Prestia, un progetto fotografico che ha accompagnato la realizzazione appunto del documentario Ma l'amor mio non muore. E ovviamente, anzi senza ovviamente perché non è detto che tutti lo sappiano, ci sono degli stand per acquistare sia gli arretrati della rivista, che è appunto edita da Oderadec, ma in più ci saranno una scelta di libri scontati al 20% per l'occasione di alcune case editrici, tra le quali Oderadec, Manifesto Libri, Derive a Prodi e Alegre, forse anche la terza. Perfetto. Insomma, questo è il programma della festa. Bene, dunque è un programma insomma molto molto ricco di iniziative, quindi l'occasione per conoscere da vicino i promotori di Storia in Movimento e di Zapruder, e quale occasione migliore farlo insomma in una serata così piacevole, magari bevendo qualcosa insieme. Allora, Storia in Movimento è stato un laboratorio molto ricco, dicevamo prima, chiaramente un confronto non solo su nodi storiografici importanti, ma anche tra metodologie e indirizzi disciplinari, quindi interessi di studio. Insomma, abbiamo detto che i temi sono davvero amplissimi, quella che ha nel corso di questi 10 anni affrontato il simposio, quindi dibattiti estivi, magari poi ricorderemo anche quello che si svolgerà quest'anno a luglio, e anche i temi che ha trattato la rivista, dalla storia del lavoro agli studi postcoloniali, una grande attenzione ai movimenti sociali e di contestazione, agli studi di genere e via di seguito. Cioè, in generale insomma si tende a privilegiare temi che hanno una forte dimensione pubblica, politica. Insomma, non deve essere stato facile, ecco questa è la domanda, diciamo, lanciare questa sfida quando è stato fatto, muoversi insomma su questo terreno che a un certo punto è diventato un terreno un po', come dire, un po' minato dopo gli anni Ottanta, dopo insomma la cosiddetta sbornia ideologica della fase precedente. Certamente gli studi della fase successiva hanno rappresentato, no, un momento di rinnovamento degli strumenti analitici, però è passato un po' il concetto per cui mantenere vivo un certo impegno nel fare storia e magari, ecco, esercitare quella funzione critica anche indirizzata, perché no, al cambiamento, insomma al miglioramento della società, è passato un po' il concetto che fare questo tipo di storia equivalga in assoluto a produrre una cattiva storia, insomma, no? E quindi credo che aver lanciato questa sfida, questa scommessa, deve essere stato un compito abbastanza difficile. Ma in realtà è stato, cioè, sia difficile ma anche facile, cioè facile mi spiego, nel senso che noi giovani storici, allora giovani insomma sulla trentina, adesso abbiamo passato i 40 del gruppo, diciamo, storico dirigente, ma nel frattempo sono entrati, anche questo è il bello di Zapruder, altre generazioni storici insomma tra i 30 e i 40 e anche sotto i 30. E all'epoca sentivamo proprio quello che hai detto tu, Luciano, cioè questa carenza, cioè aver buttato via, come si dice, un'espressione forse non tra le migliori, anche il bambino con l'acqua sporca, nel senso che una certa correzione di rotta a una storia non tanto ideologica, direi, sì, oppure ideologica in senso marziano, cioè falsa nel senso di comodo, del Carria per capirci, dove il proletariato è tutto all'offensiva, i movimenti femministi lo stesso, e le colpe, se le cose non sono andate come dovevano andare, ricadono solo sui gruppi, sul ceto politico dirigente, perché sostanzialmente corrotto e venduto all'avversario di classe, insomma questo schema interpretativo non tanto semplicistico, o meglio sia semplicistico ma sostanzialmente fallace, perché molto spesso andando a indagare invece con la lente di ingrandimento in alcuni frangenti si vede che è proprio l'opposto, che sono i settori è che la base arretrata e molto spesso è l'avanguardia che spinge, che per il salto in avanti. Bene, questa risposta degli anni Ottanta, queste letture diciamo fortemente motivate, chiamiamole così, ha portato sia a rinnovamento, penso alcuni alla microstoria o altri settori, ma ha portato questo terrore verso la storia che affondasse i propri arnesi, i propri strumenti di lavoro nel conflitto sociale. Il conflitto sociale in tutte le sue varie forme e soprattutto in quelle più alte, cioè il conflitto in fabbrica, il conflitto in quartiere, la violenza politica e via dicendo. E quindi c'era una carenza, quindi è stato facile per alcuni storici dentro e fuori l'accademia trovarsi, lanciare un appello per la costruzione di una rivista. All'inizio si pensava solo confinata all'epoca moderna e contemporanea, poi in realtà abbiamo sfondato l'arco cronologico, siamo arrivati all'antichità se non alla preistoria, cioè alle prime forme appunto pre-antiche, chiamiamole così, e per fare un laboratorio storiografico e una rivista, non si sapeva ancora all'epoca se farla solo digitale o anche cartacea, che affrontasse il nodo della conflittualità sociale e politica. Conflittualità sociale intendendo sotto questa espressione ovviamente non solo il conflitto di classe marzianamente inteso, ma una serie di conflitti che le cui linee di frattura appunto sono la classe sociale, il genere, le cosiddette etnie o culture e quant'altro, ma anche altre, base vertice, e non limitando tutto ai movimenti o alla parte che noi riteniamo tra virgolette buona o progressiva, ma anche a movimenti ad esempio reazionari, cioè sarebbe interessante, poi non l'abbiamo fatto un numero monografico, ma studiare la Vandea, i fascismi, che esprimono conflittualità sociale sia al loro interno che ovviamente in quello che vedono come antagonista. E sì, poi i temi, come hai già anticipato tu, sono stati tanti, le scuole storiografiche appunto già dette, la storia tradizionale del lavoro, la storia di genere, la storia del colonialismo, che è anche storia militare ma non solo, ma che anche ultimamente si è arricchita di temi postcoloniali, e ne abbiamo fatti insomma sia di numeri che di riflessioni su queste tematiche, che non sono solo appunto lo studio del fatto oppure del processo o del soggetto, ma anche in alcuni casi riferimenti all'identità, all'autorappresentazione, oppure alle forme di comunicazione, ricordo un numero sui manifesti politici, oppure per esempio in occasione dell'anno scorso dei 150 anni dell'Unità d'Italia sul fumetti e risorgimento, cioè su come l'Unità d'Italia è stata rappresentata fin dai primissimi momenti per arrivare ai giorni nostri, l'episodio risorgimentale come è stato rappresentato nei fumetti, quindi un chiaro uso pubblico della storia, uso politico della storia. E poi tante altre questioni sono state affrontate, insomma, dal 68 periferico, il numero 16, rivolte a margine, ai femminismi, ai lesbofemminismi a livello internazionale, col numero 13, donne di mondo, al controllo e all'autorità nella fabbrica con il numero 24, insomma. Parecchi luoghi di discussione, perché veri e propri luoghi sono, in quanto la redazione non decide autonomamente i temi, ma sono temi che vengono decisi sempre autonomamente, ma dall'assemblea di tutti gli iscritti e le iscritte, che si riunisce una volta all'anno e elegge appunto dal basso la redazione, discute i temi, ne individua tre per l'annata successiva e poi cerca anche di costruire percorsi il più possibile inclusivi, cioè cercando di entrare in contatto, in sinergia anche con altre realtà differenti da noi, ma con i gruppi locali o ambiti territoriali che si accavallano in parte a Storia in Movimento, per cercare di costruire un numero il più condiviso possibile. Con condiviso non voglio dire scientificamente o culturalmente condiviso, ma nel senso partecipato. Benissimo. Insomma, dunque, così non ci si sente, non ci si è sentiti a questo punto orfani del soggetto operaio che appunto nei decenni passati poteva incarnare ipotesi di cambiamento radicale. Insomma, c'è un'apertura ai soggetti di taglio multidisciplinare. Oggi forse poi nella fase politica è intravedibile una certa centralità dei territori, non lo so se possa costituire da questo punto di vista un baricentro, insomma, su cui impostare anche il lavoro di ricerca. Volevo dirti, Eros, come si colloca Zapruder attualmente nel panorama delle riviste storiche? La si può considerare un po' una mosca bianca, oppure ci sono diversi ambiti in cui c'è lo spazio per una riflessione sulla conflittualità sociale? Allora, diciamo che essendo uno dei fondatori, forse non sono il più indicato per rispondere a questa domanda, bisognerebbe insomma chiederlo anche a persone che di recente si sono avvicinate a Zapruder, che quindi hanno avuto modo di vederla e perché si sono avvicinate, oppure addirittura esterni all'associazione. Per quanto mi riguarda, io quindi l'autopercezione sì, la considero una mosca bianca Zapruder, perché le varie redazioni elette, io adesso non sto più in redazione da un anno, comunque hanno lavorato e continuano a lavorare in una modalità che è completamente differente dalle altre riviste, cioè il numero viene costruito dal basso, a volte preparato da seminari di Menabò, chiamiamo così, sono praticamente assemblee partecipate dove si discute con gli autori e le autrici il tema, il taglio da dare al numero, e da quanto mi risulta le altre riviste insomma non fanno così. C'è un meccanismo di selezione degli articoli che non è la peer review tanto decantata, che comunque è serio e rigoroso, a mio avviso molto più serio e rigoroso quindi anche dal punto di vista scientifico di altre riviste. E l'ultima questione per cui mi sento di dire che Zapruder è una mosca bianca è la composizione di genere. Basta prendere tutte le annate di Zapruder e si vede che gli articoli sono più o meno scritti al 50% da maschi e da femmine. Non esiste un'altra rivista italiana, se togliamo Genesis, che è la rivista della Società delle Storiche, dove c'è una predominanza di storiche, che vi scrivono, un'altra rivista italiana dove c'hai un 50%, che tra l'altro è rappresentativo della media mondiale, insomma, dei due generi. E senti, c'è anche perché ecco, nell'esplorare queste varie tematiche, insomma, poi c'è anche da dirlo che la maggior parte degli storici impegnati in questo progetto sono abbastanza giovani e forse in qualche modo vivono anche tutte le contraddizioni e anche la pesantezza di fare ricerca in questa fase, insomma, politica e economica. Che molto complicata. E non è un caso che il prossimo simposio ci saranno due dialoghi che toccheranno questa tematica del precariato e del fare ricerca da qui al prossimo futuro. Bene, allora così diamola, diciamo, una scorsa a quelli che saranno i temi al centro del simposio che si aprirà alla fine di luglio, mi sembra il 26-27 luglio, peraltro si affronteranno anche temi che daranno l'opportunità di insomma leggere anche le problematiche dei movimenti attuali, quindi un occhio di riguardo anche a quello che sta succedendo nei paesi più mediterranei dell'Europa, in cui divampa la crisi, ma divampa anche una risposta di carattere sociale, in alcuni paesi anche abbastanza ampia, magari da noi ancora poco matura. Sì, allora è l'ottava edizione del simposio, che è partito nel 2005, si terrà dal 26 al 29 luglio, il luogo è il lago Trasimeno, la cornice è fantastica, mi sento di dire, si svolge a Monte del Lago, che è un paesino medievale arroccato sul lago Trasimeno, quindi uno sperone. Le prime edizioni facevamo all'isola Polvese, quindi in un'isola, poi c'erano i problemi del traghetto e una serie di altre questioni, quindi ci siamo spostati sulla terraferma. Il luogo è bellissimo, lo spirito, appunto, il nome simposio è quello del simposio, si sta insieme, si mangia, si beve, c'è attività ricreativa la sera e a mattina e il pomeriggio ci sono delle sessioni in cui si discute, ci sono dei dialoghi, li chiamiamo così. Il primo è Università e prospettive della ricerca, tra precariato, meritocrazia e attivismo politico-culturale, cioè intenzione è quella di fare una discussione, per la verità continuare la discussione che si è interrotta all'ultima assemblea, però vogliamo darle un taglio più aperto, non solo interno di discussione, su cosa dovrebbe fare un'associazione, anche il singolo storico e la singola storica, da qui nei prossimi anni, cioè cosa potrebbe fare, vorrebbe fare, sarebbe bene fare, cosa proporre, sia a livello di politica culturale, quindi che idea abbiamo di università, che giudizio ci diamo sull'università, sui meccanismi di reclutamento, sul lavoro semischiavistico o schiavistico che ad alcuni viene richiesto, anche le cose belle, non solo cose brutte che ci sono negli istituti di ricerca, che non è solo l'università, sugli istituti della resistenza, quale prospettive insomma ci sono. Poi una riflessione anche sulla meritocrazia, cosa significa? Non è che in realtà dietro questa parola, che comunque ad alcuni di noi lascia in ogni caso perplessi, ci sia invece qualcosa di altro che serva come grimaldello per scardinare ulteriormente alcune garanzie che si sono conquistate negli anni 70? La domanda per me è ovviamente retorica, ma vorrei discutere anche con altri e altre dell'associazione e non solo dell'associazione. E poi se ha senso un attivismo politico-culturale, intendendo non l'appartenenza alla propria organizzazione, compagine, area politica, quella fortunatamente intendo crudere, c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, comunque su questo siamo molto laici e tranquilli, ma l'associazione ha senso, a mio avviso, se a livello politico-culturale, cioè nel campo degli studi storici, dei giovani storici, interviene e dice anche la sua, che non lasci solo alle associazioni professionali dei modernisti, dei contemporaneisti o della storia orale o quello che ci vogliamo metterci, ma che proprio come gruppo di persone che hanno evidentemente delle affinità, altrimenti non sarebbero insieme, che io non penso sia solamente l'ambito di studio, cioè la conflittualità sociale, perché ci sono anche persone che studiano la conflittualità sociale e non sono nostre socie, non collaborano con noi, quindi. E quindi se c'è questo qualcosa in più, che venga allo scoperto e possa assumere anche posizioni, insomma, di politica culturale pubbliche. Il primo dialogo. A questo dialogo, insomma, fa da contraltare, è in coppia con un dialogo organizzato dal Caso S, un gruppo bolognese, non solo bolognese, praticamente di giovani storici, molto sono dottorandi, alcuni sono neolaureandi, oppure laureandi, fare storia domani, quale sfida per il presente. E quindi io sono molto curioso di, insomma, cosa verrà fuori anche da questo dialogo, dove c'è una generazione che è quella che si sta formando nelle aule universitarie, non solo, sarà la prossima generazione di storici e storiche. E gli altri tre dialoghi invece sono un po' più tradizionali, cioè tradizionali nella tradizione dei nostri simposi. Il secondo dialogo è sul conflitto razziale nelle Americhe, interpretazione e confronto su schiavitù, emancipazione e movimento dei diritti civili e decolonizzazione africana. Altro dialogo è La nostra patria e il mondo intero, insorgenze popolari, sommosse urbane e reti radicali nel contesto globale, sul lungo periodo, cioè dal 1848 ai giorni nostri. E infine un altro dialogo, il quinto, perché il terzo era quello fare storia domani, il quinto dialogo a ferro e fuoco, violenza politica per un'analisi di una categoria controversa, una riflessione che abbiamo già avviato su quest'ultimo numero di Zapruder, ma in realtà abbiamo dedicato un numero specifico all'ordine pubblico e in un dibattito serrato nei primi 3-4 numeri della rivista, anzi a partire dal primo numero fino al 5-6, con Laura Schettini, sottoscritto, e Marco Grispigni, si era avviato appunto questo dibattito e adesso a distanza di anni è ripreso, anche arricchito da l'ultima stagione di studi sulla violenza politica, categoria peraltro controversa e su cui insomma ci sarà una bella e approfondita, mi auguro, discussione. Benissimo, quindi questo è il simposio 2012 che si terrà a partire dal 26 luglio. Un simposio, insomma, che non so se l'ho già detto prima, ma forse è quello dà veramente l'idea, insomma, della ricchezza e anche della ricchezza del confronto, insomma, qui. Si può ancora iscrivere al simposio, basta andare nel sito web dell'associazione, che è www.storieinmovimento.org, e lì si trova il format per l'iscrizione, i costi, che sono, insomma, relativamente contenuti, perché per un socio dell'associazione sono 150 euro per tutti i 4 giorni. Un non socio paga 50 euro in più, insomma. Va bene, allora Eros, credo sia tutto, magari ricordiamo l'appuntamento di sabato. Sì. La festa appunto per i 10 anni di Zapruder, più che di Zapruder, dell'associazione Storia in Movimento, sabato 9 dalle ore 18 in poi all'Acrobax, vi aspettiamo numerose e numerosi. Grazie Eros, a sabato. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. The lights given by God, as if in Eden it's